Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15 in simultanea su Wombat, Onda Rossa, Neanderthal, Eustachio, Quar, Blackout, Spore. E ben ritrovati al Ponte Radio, la trasmissione coordinata fra varie radio del territorio italiano, autogestite, che il venerdì si rimbalzano il segnale e parlano di temi alternati e diversi. Questo venerdì 14 febbraio tocca a Radio Eustachio, venerdì 13 febbraio tocca a Radio Eustachio. Tema libero, noi abbiamo deciso oggi di parlare di guerra, di parlare di progetti editoriali che si occupano di questioni guerra, economia di guerra e diserzione. E vi facciamo ascoltare una prima canzone e poi partiamo con la presentazione dei contenuti della puntata. Я вже признаюсь, мамо, я ухиля. Я проснувся, ухилюся. Вже немає, тут пітьма гуляє, і ще в роном ТЦК, що ж робити мушу, може йти на Тису, а то краще через гори, може все служити, але хочу жити, та й за кого воювати, тому я признаюсь, небезпека відчувається. Краще сам я вже признаюсь, мамо, я ухиля. Я проснувся, ухилюся. Народився, ухилився. Я проснувся, ухилюся. Народився, ухилився. E la puntata di oggi, appunto come è stato detto, la dedichiamo al tema della guerra, che è un macro tema, se vogliamo, il tema, l'orizzonte del nostro periodo storico, del nostro anche quotidianità, qualcosa che ormai ci rimbalza ovunque, dovunque lavoriamo, ovunque viviamo, e anche nel bombardamento mediatico che c'è costante sui temi del riarmo, della quella che diciamo viene definita geopolitica. Ma la puntata di oggi vuole essere anche dedicata all'opposizione alla guerra, alla resistenza che si può mettere in campo, alla diserzione, allo sciopero, al sabotaggio, insomma quello che può diventare, deve diventare movimento contro la guerra nella sua accezione più ampia. Lo facciamo con attraverso i contributi che provengono da una rivista che da poco, da un anno a questa parte, esce in Italia, di Sfare, che ha attirato la nostra attenzione e per questo appunto proporremo alcuni contributi, alcuni dei quali sono proprio legati a degli articoli che usciranno sul quarto numero che adesso è in stampa, ma ne discutiamo anche con una persona qua in studio che ha partecipato alla stesura dell'ultimo numero, a cui diamo il benvenuto. Ciao, grazie dell'accoglienza. Grazie a te di essere qua con noi. E beh, innanzitutto ti vorremmo chiedere un po' di presentare anche a chi ci ascolta. Cos'è questa pubblicazione, quali sono, diciamo, insomma, la sua linea editoriale e comunque le tematiche che approfondisce, in cosa si contraddistingue, ecco. Allora, Disfare nasce appunto circa un anno fa dall'incontro fra vari compagni che si erano trovati in varie iniziative, momenti di confronto sul tema della guerra, in particolare intorno alla diserzione in Ucraina che noi seguivamo e provavamo a supportare anche da qui. È diciamo una rivista un po' ibrida per certi aspetti, nasce in qualche modo dalla volontà anche in un momento in cui nei media digitali che tutti più o meno utilizziamo, comunque le informazioni si rincorrono ma anche si perdono molto in fretta, dalla volontà di provare a fissare sulla carta stampata, che ha comunque secondo noi anche un altro peso, una serie di contributi, di spunti che arrivavano da tutti i fronti della guerra globale, da tutte le persone che lottano contro la guerra globale, e appunto provare a dargli una casa, insomma, tenerli insieme. In parte ci siamo ispirati a una rivista che usciva in Italia fra la fine degli anni 70 e gli anni 90, che si chiama Senza Patria, che in quegli anni raccoglieva, in particolare, diciamo, seguiva la lotta degli obiettori totali, in particolare compagni anarchici che in quegli anni rifiutavano appunto il servizio militare obbligatorio e anche quello civile sostitutivo, affrontando poi il carcere. Quindi c'erano tutti dei percorsi di mobilitazione, di supporto alle loro scelte individuali che trovavano spazio sulla rivista. Di Senza Patria ci ha ispirato un po' l'aspetto, per così dire, ecumenico, nel senso che Senza Patria appunto raccoglieva anime anche abbastanza diverse, e anche con Disfare, diciamo, non è una rivista nel senso classico in cui si vuole dare voce a un piccolo collettivo che ha una sua linea e, no, e porta una sua. Ma ce la siamo immaginata più come uno strumento per mettere in rete e per mettere in collegamento, diciamo, esperienze diverse, per conoscersi anche fra persone che si stanno muovendo con temi e sensibilità simili, e per dare risalto a quello che in questo momento si muove contro questi orizzonti di guerra che si fanno continuamente più foschi. Dico altre due cose? Sì. Diciamo, la prospettiva di questa rivista sicuramente noi la scriviamo con uno sguardo che fa riferimento all'area anarchica, ma non vogliamo rivolgersi esclusivamente al movimento anarchico, bensì a tutte quelle persone che si muovono comunque con una prospettiva che è quella sicuramente internazionalista, nel senso di, non solo nel senso di internazionalismo classico, ma anche perché secondo noi è importante in questo momento pensarsi, in un contesto internazionale, cioè collocare la propria lotta e quello che si fa in un contesto che è internazionale, perché la guerra civile che si sta dando in questo momento, con tutti i suoi fronti di guerra, è intrinsecamente un fenomeno internazionale e quindi è urgente pensarci in questo modo e anche pensarci appunto non solo in un'ottica internazionale, ma pensarci anche con una storia alle spalle, per cui dedichiamo anche una sezione della nostra rivista che si intitola Dagli archivi a tutta una serie di contributi di pagine appunto di o riflessione o lotta contro la guerra che ci sembra importante che rimangano vive e che continuino a ispirare quello che facciamo. La rivista ha un format un po' ibrido, nel senso che è un po' appunto un po' bollettino che diciamo diffonde comunicati, appelli, testi che ci sembrano importanti, e dall'altro comunque prosegue una sua elaborazione di alcune prospettive teoriche, di cui magari posso dire qualcosa anche dopo, non so. Sì, poi è molto bello il fatto che mi sembra almeno si ponga un po' l'obiettivo di riordinare varie questioni, quindi in un momento in cui purtroppo da qualche anno a questa parte il concetto di guerra diventa sempre più tangibile anche per gli occidentali, mettere ordine significa anche, appunto, come dici tu, fare un bollettino di vari conflitti, ma vederli sotto una stessa lente e quindi cercare di capire che la questione guerra non significa un singolo conflitto con delle singole motivazioni, ma che significa capire lo sguardo ampio dei conflitti, non solo, cioè sia in quelle guerre tradizionali, di con diciamo chi attacca e chi si difende, ma anche appunto guerra intesa come contestazione sociale, come difesa dei propri diritti e anche guerra civile, appunto. Certo, perché diciamo una appunto delle premesse teoriche che animano un po' questo progetto è, vabbè, ovviamente da una parte che la guerra è l'orizzonte storico in cui ci muoviamo, ma anche che è proprio non una qualcosa di episodico che si dà in certi teatri di guerra, ma è proprio il fondamento della modernità occidentale. E la guerra in particolare del nostro tempo manifesta in maniera sempre più evidente il suo essere un fatto sociale totale che diciamo, si dà in tutti gli aspetti della vita sociale, quindi non si dà solo laddove ci sono gli eserciti con le armi, ma la guerra del nostro secolo, è ibrida, passa per i flussi energetici, passa per le banche dati, passa per i rilevamenti biometrici, passa per la securizzazione delle nostre città, passa per le zone rosse, l'esclusione e l'inclusione delle eccedenze umane. Quindi è una guerra che è, diciamo, che secondo noi per capirla va intesa in questo senso, e in questa guerra ibrida e totale che investe appunto le nostre identità digitali, le nostre menti, almeno nelle intenzioni di chi la combatte, secondo noi il ruolo della tecnica è centrale, perché è proprio dalla tecnica moderna che sgorga la guerra del XXI secolo. Per cui uno spazio cerchiamo nella rivista comunque di dare spazio a delle riflessioni che mettano al centro il ruolo della tecnica, tecnica che tra l'altro unisce in maniera estremamente chiara il fronte interno e il fronte esterno, no? Quindi anche l'idea che la guerra sia non qualcosa che si dà al di fuori degli stati, ma che per potersi dare al di fuori, prima di tutto deve darsi all'interno, deve darsi contro le stesse popolazioni. Questa era l'intuizione di Simone Weil, che scriveva già negli anni 30, no? Che la guerra è prima di tutto un fatto di politica interna. E negli apparati tecnologici, questa dimensione in cui c'è una continuità in totale fra quello che viene fatto contro le popolazioni all'interno e contro il nemico esterno è proprio totale. Capire che siamo tutti parte di una sperimentazione di tecniche di guerra, anche se non ce ne accorgiamo, anche se il conflitto è soppresso dalla pace sociale, ecco, nei paesi Infatti cito, occidentali. sì, scusa, cito al volo che appunto nel prossimo numero ci sarà un contributo che riprende un po' questi nodi teorici che si chiama appunto senza fronte, no? Con l'idea che la guerra del nostro secolo non si dà nella dimensione classica dei fronti, ma attraverso il paradigma del calcolo che quantifica tutta la vita, si dispiega in ogni parte della società e della nostra vita. Infatti, in maniera significativa mi sembra che abbiate scelto come anche sottotitolo della rivista per la lotta contro il mondo guerra, quindi appunto la guerra che riveste la totalità dell'esistente, annullandolo poi alla fine dei conti. E altri contributi interessanti appunto che abbiamo magari nei numeri passati, però c'era stato un contributo interessante sulla logistica e un altro sull'intelligenza artificiale che da una prospettiva un po' diversa fanno vedere come un certo discorso che c'è anche sicuramente con ottime intenzioni però nei nostri ambiti di movimento è quello sulla militarizzazione, no? L'idea che bisogna in qualche modo respingere una corruzione in senso militare di qualcosa che viene invece che è neutrale o viene dall'ambito civile. Guardare alla genealogia della logistica e dell'intelligenza artificiale, che sono due cose che abbiamo approfondito nella rivista, ma ci sarebbero tanti altri esempi da fare, fa vedere come in realtà tanto di quello che costituisce la nostra realtà sia legato fin dai suoi albori alla guerra, sia stato coprodotto in una dialettica costante in cui la guerra ha un ruolo centrale e quindi sia impossibile, diciamo, separare, no, come nel discorso sul dual use, ci sono gli usi buoni e gli usi cattivi, no? La tecnologia moderna è un tutt'uno e la guerra ha un ruolo centrale nella sua nascita, nel suo sviluppo, nelle forme che prende. Grazie intanto per queste chiacchiere introduttive che ci hanno un po' raccontato cos'è questo progetto editoriale. Ora ascoltiamo due contributi che un po' ci spiegheranno, ci racconteranno degli esempi pratici della tecnologia applicata alla guerra. E ascoltiamo questi due contributi e dopodiché faremo noi qualche considerazione in merito a questi. Lo stato dei varchi, la mobilitazione digitale, è un articolo che si trova nel primo numero di Disfare. Ci parla dell'Ucraina, dove commenta che solo al gennaio del 2025 i desertori dell'esercito sarebbero 200.000, mentre all'inizio dell'agosto del 2024 il presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento Ucraino, Nataluka, aveva stimato in circa 800.000 gli uomini imboscati per sfuggire alla mobilitazione. Gli atti di diserzione e l'ostilità al massacro si manifestano massicciamente anche in Russia, tanto che viene arruolato in modo crescente la popolazione pericattabile, detenuti e migranti neocittadini. La situazione è critica per gli stati belligeranti che vogliono trovarsi in posizioni di forza per poter trattare una pace virgolettata che prefigura grossi affari per la ricostruzione e la vampirizzazione delle terre, tanto che hanno implementato diversi dispositivi per la mobilitazione forzata. Alcuni tradizionali in stato di guerra, cioè la promulgazione di leggi marziali e mobilitazione generale, abbassamento dell'età di leva, divieto di espatrio per gli arruolabili, reclutamento di stranieri, detenuti e malati, mobilitazione delle donne, oggi narrata in alcuni in termini di parità di genere, rastrellamenti sommari. Altri, più innovativi, che si aggiungono sono la creazione di registri digitali unificati ai fini del arruolamento, Gosuslughi in Russia e Oberi in Ucraina. Di fronte ad un'umanità che si rifiuta di essere ridotta a risorsa sacrificabile per alimentare la guerra tecnocapitalista, lo Stato, a prescindere dalle tassonomie di governo formali, risponde in maniera autoritaria senza mediazioni, se non quelle offerte dal progresso tecnico, a trasformarsi la stessa infrastruttura della cittadinanza con il passaggio da una logica classificatoria e verbale propria della burocrazia documentale a una logica matematica astratta, delinguistica. L'identità legale, trasformandosi in identità digitale e sempre più biometrica, diventa indistinguibile da un dispositivo di sorveglianza. Entro i confini di quello che può essere definito stato dei varchi, il cittadino non obbediente, profilato digitalmente, può essere meccanicamente messo al bando. La mobilitazione digitale, tuttavia, conserva lo stato di mito, dal momento che tanto l'umana indocilità quanto le difficoltà tecniche di implementazione mostrano la fragilità di questi dispositivi. Gosuslughi vuol dire il portale unificato dei servizi statali e municipali, noto come un'infrastruttura digitale sviluppata in Russia dal 2009, quando lo Stato era governato dal Medvedev. Dal 2007 le autorità esecutive federali russe hanno deciso di digitalizzare la cittadinanza ed istituire il cosiddetto e-government. Il lancio e la progettazione di Gosuslughi sono stati affidati a Rostelecom, ente delle telecomunicazioni di proprietà dello Stato. Esecutore diretto era il gruppo Envision, oggi proprietà MTS, uno dei principali integratori di sistemi in Russia e l'ente gestore il Ministero dello Sviluppo Digitale. Il portale digitale è stato lanciato attraverso una narrazione in termini di democrazia e trasparenza della pubblica amministrazione. La libertà è meglio della mancanza di libertà, era lo slogan elettorale di Medvedev. Da allora milioni di cittadini russi si sono volontariamente registrati sul portale per sbrigare questioni burocratiche, amministrative, fiscali. In cambio dei preziosi big data individuali, dalla data di nascita alla residenza allo stato civile, Gosuslughi permette al cittadino di ottenere un passaporto, pagare le tasse, una multa, fissare una visita medica e iscrivere il proprio figlio all'asilo. A fine del 2024, Grigorenko, vice primo ministro della Federazione Russa e sovrintendente alla transizione digitale, ha dichiarato: la digitalizzazione è diventata parte delle nostre vite. è in un certo senso come l'elettricità, l'acqua calda, qualcosa di cui non possiamo fare a meno, ma qualcosa di cui non ci accorgiamo nemmeno più. Abbiamo praticamente smesso di accorgerci anche del portale Usoslughe. Oggi offre più di 1.500 servizi digitalizzati e conta oltre 110 milioni di utenti, ossia più di 2/3 della cittadinanza russa. Il portale oggi favorisce l'accesso a quelle che vengono definite situazioni di vita. Recentemente abbiamo lanciato la situazione di vita inizia un business online, che ti consente non solo di avviare un'impresa, ma anche di selezionare regimi fiscali, permessi, licenze, registratori di cassa e altro ancora. Al portale si accede con un'autentificazione a due fattori: SMS, codice di verifica o dati biometrici. La registrazione delle biometrie certificata richiede la verifica dell'identità tramite un passaporto e un telefono dotato di chip NFC e consente di emettere una firma elettronica, richiedere un prestito, aprire un conto bancario. La biometria semplificata si ottiene invece semplicemente scattandosi una foto del volto. Consente di pagare beni, servizi e viaggiare con i mezzi pubblici. Gosuslughi ha svolto un ruolo cruciale in Russia durante la pandemia di Covid-19, avendo autorità di emettere i codici QR essenziali per gli spostamenti. A Mosca, l'attuazione rigorosa dei controlli è stata resa possibile dall'interoperabilità con la rete Safe City, un sistema di videosorveglianza che a partire dal 2014 co copre più di 90 degli edifici residenziali e delle città e quasi 75% delle aree pubbliche. Anche le potenzialità in termini elettorali hanno riscosso l'interesse dell'amministrazione pubblica. In 27 regioni della Federazione Russa, nella Crimea contesa, è oggi possibile votare online attraverso un codice che viene inviato al numero di telefono registrato sul proprio profilo personale di Gosuslughi. Oggi questo portale permette al cittadino di un'interiore forma di partecipazione alla vita dello Stato, quella di essere convocato digitalmente per andare a morire in trincea nella guerra in Ucraina. Al fine di eliminare le scappatoie, che finora molti uomini hanno usato per evitare la notifica della cartolina di convocazione alle armi, il Parlamento russo nell'aprile 2023 ha adottato una legge per istituire la creazione di un registro elettronico unificato delle persone arruolabili, poi lanciato nel novembre del 2024. I dati personali utilizzati nel database derivano dall'incrocio tra gli archivi dello Stato civile, i registri del Servizio di Sicurezza di Frontiere e i registri fiscali e migratori. I casellari giudiziari anche. Oggi la convocazione alle armi, oltre ad essere inviata in forma cartacea e via posta, viene comunicata digitalmente agli uomini tra i 18 e i 30 e ai riservisti tramite Gosuslughe. Aprire o meno la cartolina non è più importante, non farsi trovare è molto più complesso. La convocazione si considera legalmente ricevuta non appena pubblicata sul portale, anche se il cittadino non è dotato di un dispositivo per accedervi o di un accesso ad internet tout court. Chi non si presenta all'ufficio di reclutamento entro 20 giorni dalla notifica digitale viene considerato automaticamente renitente. L'unificazione dei dati in un unico registro o l'interoperabilità dello stesso da parte di più organi governamentali fa sì che il cittadino non obbediente sia immediatamente costretto a spostarsi nella zona grigia della semilegalità. Non potrà lasciare il paese, ottenere o rinnovare la patente, acquistare o vendere immobili, contrarre prestiti, registrare una piccola impresa, ottenere un passaporto straniero. Inoltre, le autorità regionali avranno il diritto di imporre ulteriori restrizioni, privando, ad esempio, una persona di misure di sostegno economica. Oltre a una multa amministrativa, lo Stato può arrivare ad intentare anche un'azione penale che contempla fino a 2 anni di carcere. Chi provasse comunque a deludere la chiamata a Mosca dovrà nascondersi anche dalle migliaia di telecamere di sorveglianza dotate del software di riconoscimento facciale Sfera, che oggi servono anche a identificare i renitenti. Ad oggi il registro elettronico delle convocazioni via Gosuslughe è stato lanciato in modalità sperimentale solo in alcune regioni e nonostante ripetuti annunci, la sua implementazione generalizzata è stata costantemente rimandata. Al gennaio 2025 i precoscritti di 17 anni residenti a Mosca hanno iniziato a ricevere cartoline digitali relative all'arruolamento. Uno di loro ha affermato che 10 minuti dopo la notifica ha ricevuto la segnalazione di un neurologo, un traumatologo, un radiologo e altri pronti ad assistere per la certificazione medica della sua idoneità ad essere mandato a morire in trincea. Oberig può essere tradotto come amuleto, un ornamento o gioiello pensato per proteggere dal male o dal pericolo. È il nome del registro elettronico unificato per l'arruolamento militare creato dallo Stato ucraino nel marzo del 2022, con lo scopo di digitalizzare e meglio controllare i dati dei coscritti e dei riservisti. La storia del registro statale unificato dei militari di leva, dei coscritti e dei riservisti inizia con una legge adottata nel 2017, ma la sua istituzione viene approvata dal Consiglio dei Ministri solo dopo l'ampliamento della guerra su vasta scala tra NATO e Russia in Ucraina. Fin dagli albori, il fine di questo progetto è stato quello di ridurre la possibilità di falsificazione dei dati e l'elusione della mobilitazione da parte di una popolazione che, come era ben prevedibile già nel 2022, sarebbe ben presto diventata apertamente recalcitrante e ostile all'essere mandata al macello. Oberig è stato perfezionato nel 2023 tramite il progetto EU for Digital UA, finanziato dall'Unione Europea, la cui implementazione è stata affidata alla e-Governance Academy, fondazione senza scopo di lucro, in prima linea nella cosiddetta transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, fondata nel 2002 da un'iniziativa del governo dell'Estonia, dell'Open Society Institute e del programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Nel 2023, EU for Digital UA ha contribuito a modernizzare Oberig, facilitando l'interoperabilità tra diversi database. Nel registro elettronico sono contenuti i dati personali di tutti i cittadini ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni, nome completo, luogo di residenza, data di nascita, stato civile, informazioni sui familiari, stato lavorativo, informazioni sull'istruzione, informazioni fiscali, proprietà terriere, dati sanitari, casellario giudiziario, grado militare, idoneità per il servizio militare. L'elenco delle informazioni che le varie autorità possono inserire nel registro è molto vasto. Il Ministero della Salute, ad esempio, può condividere i numeri di telefono, gli indirizzi email dei coscritti e i dati sul loro stato di salute. Il Ministero degli Affari Interni i dati relativi alla fedina penale, all'indirizzo di lavoro e alla posizione lavorativa ricoperta da un coscritto. Non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di coscritti e riservisti, che sono invece legalmente obbligati ad aggiornare i loro dati, per cui è stata anche creata una app apposita, Riserva Più. Con la legge sulla mobilitazione totale dell'aprile 2024 è stato infatti imposto l'obbligo di aggiornare entro 60 giorni i dati personali su Oberich. In caso contrario, le pene previste vanno da multe amministrative al pignoramento di proprietà e blocco dei conti corrente, in modo simile a quanto imposto nel 2022 dal primo ministro Trudeau in Canada ai camionisti che protestavano contro l'obbligo vaccinale. Per gli uomini all'estero è scattato il blocco dei servizi consolari, tra cui il rinnovo del passaporto. Finora l'invio della cartolina di chiamata alle armi avveniva solo per via cartacea e dichiarando un falso indirizzo, visto l'alto numero di sfollati interni all'Ucraina, si poteva eludere la convocazione. Centralizzando e incrociando i dati, Oberig potrebbe invece rendere molto più difficile sottrarsi al controllo e alla punizione. Il database unificato è accessibile dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore delle Forze Armate, dal Servizio di Sicurezza Interna e dal Servizio di Intelligence Estero, dagli uffici di reclutamento territoriali, dai servizi di guardia frontiera e anche dalla polizia, tramite Armor, un sistema informativo integrato sviluppato nel 2002 che consente oggi ai poliziotti di verificare istantaneamente lo status di disertore o renitente del cittadino durante un controllo. A fronte di questi tentativi di mobilitazione capillare, nel gennaio 2025 il Parlamento ucraino ha però adottato in prima lettura una legge che prevede uno sconto del 50% sulle multe per il mancato aggiornamento dei propri dati personali su Oberich. Sembra infatti che più di 6 milioni di cittadini eurolabili non abbiano ottemperato all'obbligo, continuando a rifiutarsi di obbedire. Di fronte a un'umanità che si rifiuta di essere ridotta a risorsa sacrificabile per alimentare la guerra tecnocapitalista, lo Stato, a prescindere dalle tassonomie di governo formali, democrazia versus autocrazia, risponde in maniera autoritaria, senza mediazioni se non quelle offerte dal progresso tecnico, a trasformarsi nella stessa infrastruttura della cittadinanza, con il passaggio da una logica classificatoria e verbale propria della burocrazia documentale a una logica matematica astratta, delinguistica. L'identità legale, trasformandosi in identità digitale e sempre più biometrica, diventa indistinguibile da un dispositivo di sorveglianza. Entro i confini di quello che può essere definito stato dei varchi, il cittadino non obbediente profilato digitalmente può essere meccanicamente messo al bando. La mobilitazione digitale tuttavia conserva oggi lo statuto di mito, tramite cui si propaga l'idea di una tecnologia onnisciente e infallibile, alimentando negli individui un senso di timore e impotenza. Al contrario, tanto i gesti di umana insubordinazione quanto le difficoltà tecniche di implementazione mostrano l'attuale vulnerabilità di questi dispositivi. Quasi inquietante, direi, no? Allora, sì, appunto, questi erano due contributi che riprendono un po' delle cose che noi abbiamo trattato nel primo numero di Disfare. Diciamo, secondo me, la cosa importante da riassumere brevemente è che la digitalizzazione, la biometrizzazione, quindi la sussunzione digitale della vita è un progetto che è intrinsecamente votato alla guerra. In Italia non a caso tutto un processo di digitalizzazione, particolarmente in ambito sanitario, ma che poi travalica anche quei confini, si è dato con la guerra al Covid, che è stata una ginnastica di digitalizzazione e di mobilitazione. Quindi sicuramente avere chiaro che queste forme di digitalizzazione e di gestione algoritmica della vita sono tutte legate alla guerra. D'altro canto, secondo me, questi contributi mettono in luce una cosa importante, cioè che comunque questi sistemi non sono ineludibili, hanno delle crepe e si danno una quantità, cioè, e comunque chi ha voglia di ribellarsi, chi è determinato ad opporsi, trova, come ha trovato tantissime persone in Ucraina, dei coni d'ombra in cui sfuggire a questo panopticon, che deriva parte della sua forza proprio dal fatto di essere un po' sacralizzato nel discorso comune, di apparire invincibile, ma che in realtà spesso è molto più fragile di quello che sembra, per cui anche tutta una parte di Disfare vuole non solo descrivere tutte le cose, tutti i piani del potere legati alla tecnologia, ma anche tutti i tentativi e tutti i successi anche che ci sono di chi prova ad opporsi. In questo senso, secondo noi, mettere al centro l'infrastruttura tecnologica del tecnocapitalismo può tenere insieme tante lotte, da quella contro la guerra a quella contro il colonialismo, a quella alle battaglie ecologiche, diciamo, può essere, diciamo, un collettore di tante istanze, perché l'apparato tecnologico, diciamo, è centrale per la guerra, è causa di disastri ecologici, è centrale per il colonialismo di insediamento israeliano, è centrale per l'esclusione delle persone migranti nei nostri paesi, insomma. Beh, infatti, rispetto a quello che dicevi, mi sembra che un fatto che ha cambiato molte carte in tavola e ha influenzato anche questo aspetto è quello che è successo in Palestina e a Gaza, con un genocidio algoritmico. Un aspetto che è stato, diciamo, evidenziato da più parti, a un certo punto è diventato talmente evidente da essere anche, diciamo, ammesso e menzionato sui media, diciamo, mainstream, come possiamo definirli, però questa cosa ha dato il fatto che ci fossero anche delle sinergie, diciamo, di questo tipo, per cui appunto ci fosse una critica alle big tech, al coinvolgimento appunto di IBM, di Microsoft, di Meta, e anche un'attenzione magari a certe pratiche come appunto quella di una parte della resistenza palestinese, diciamo, di sottrazione a queste tecnologie di controllo che sono pervasive. E appunto nella scaletta che ci hai fatto vedere, diciamo, del prossimo lunedì Sfare, ci sarà anche un reportage, abbiamo visto, proprio su questo aspetto, su come appunto in Palestina ci si cerca di difendere anche da questo aspetto dell'aggressione, del colonialismo. E c'è anche un altro testo che abbiamo pubblicato invece nel numero dell'autunno 2025 che ragiona sull'intelligenza artificiale e sulla sua storia proprio a partire dal suo uso a Gaza, che è quello che ha un po' portato alla consapevolezza di tanti il fatto che l'intelligenza artificiale può essere usata in ambito bellico, perché appunto, lo ripeto brevemente per chi magari non lo sa, però appunto i bombardamenti israeliani su Gaza sono stati guidati da alcuni algoritmi di intelligenza artificiale che venivano utilizzati per individuare i target, quindi le persone che poi sarebbero state massacrate nei bombardamenti, e questo testo fa un po' un ragionamento sul fatto che l'uso bellico dell'intelligenza artificiale non è un'anomalia, non è una deviazione, ma in realtà è proprio dall'inizio della sua storia che l'intelligenza artificiale nasce nei progetti di ricerca della DARPA come un progetto di grande interesse militare. O anche banalmente in un ambiente come quello di una contestazione di piazza o di un corteo, pensare che la presenza di un drone, che è una macchina atta anche ad uccidere, sia quella che adesso controlla, fa le riproduzioni nelle fisionomie delle persone da lontanissimo, riesce a vedere tutto da uno sguardo assolutamente predominante, e quindi ritorna qua il binomio del territorio di guerra, che non è solo che è il conflitto sociale, oltre che il conflitto tradizionale che ci si può immaginare. Oltretutto mi viene da pensare che l'intelligenza artificiale si ciba alla fine di dati biometrici che da anni vengono già raccolti su questi territori, quindi l'intelligenza artificiale non è niente di chissà cosa di nuovo, perché è solo elaborazione di dati che raccogliamo da chissà quanti anni. E siamo abituati a vederli in un certo modo, cioè che vengono raccolti per obiettivi civili, di respiro cittadino o qualcosa del genere, ma in realtà è visibile a tutti poi l'effetto che può avere una raccolta diversa, un'elaborazione diversa di questi dati. Ma cara e curla, kill a plan and that. It's from a jizz, a old third dawn, I want my mind. happy conscience, no thanks. I meditate and have plenty of wine, sand and never for a second fall for constant suits. And when the revolution comes, I'm first out to loot, yeah. New gods, happy days. So much comfort when you don't have to pay. And when I'm happily tripped in the center gear, then all of you cons are getting one behind the ear, yeah. E poco fa menzionavamo comunque un elemento che è, se vogliamo, un altro aspetto di questo ritorno indietro della tecnologia bellica e del dual use, diciamo, onnipresente, pervasivo, che si caratterizza per un utilizzo sia civile sia militare, al punto da rendere indistinguibili i due ambiti, e mi riferisco al drone. Perché nella guerra contemporanea, appunto, un'altra delle grandi rivoluzioni che c'è stata in quell'ambito è stata proprio quello dell'introduzione del drone, dell'utilizzo sempre più pervasivo, sempre più all'interno delle strategie militari, di un'arma che permette, appunto, inizialmente permetteva la ricognizione, l'acquisizione di dati, di immagini, il monitoraggio quindi del campo di battaglia o comunque di prede attenzionate per vari motivi, e a un certo punto ha acquisito anche una letalità. Fra l'altro, questa cosa è interessante rispetto anche a discorsi che venivano fatti qua e che vediamo appunto anche comparire in questa rivista di Sfare, sul fatto che comunque, per dire, la catena di comando che decideva le esecuzioni dei terroristi dopo l'11 settembre attraverso i droni era a un certo punto quella democratica di Barack Obama, futuro Nobel per la pace, e semplicemente quello che è successo con i passaggi fra presidenze repubblicane e democratiche è stato il fatto che i democratici hanno cercato di mantenere un controllo sulla catena umana, cioè che ci fosse una vidimazione da parte di qualcuno, e quel qualcuno era di fatto poi il presidente degli Stati Uniti, mentre invece Trump nelle sue due amministrazioni, compresa appunto l'ultima in corso, ha tolto questi freni e ha preferito, diciamo, incentivare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi massificare in qualche maniera anche la capacità di uccisione. Il drone quindi è, diciamo, una delle più avanzate tecnologie militari, che, come abbiamo detto prima, torna anche indietro perché i cortei adesso in Italia vengono monitorati anche attraverso i droni, e in un futuro chissà magari verranno anche repressi direttamente attraverso i droni. E una tecnologia che è stata sviluppata anche in Israele, particolarmente è stata il terreno di sperimentazione maggiore e l'industria bellica più all'avanguardia, ma anche quella che sta incontrando una resistenza molto forte, e non mi riferisco solo alla resistenza, diciamo, sul campo, che può incontrare dalla resistenza palestinese, ma anche da quella che succede in Europa, perché c'è un... Appunto, in questa puntata noi volevamo anche cercare di focalizzarci sulle resistenze, su quello che di positivo si può fare contro la guerra, quindi non solo come il fatto bellico, come l'apocalisse inarrestabile, appunto il mito anche della tecnica invincibile, ma su quello che l'umano effettivamente nel concreto fa già. E la vicenda che ci ha molto colpito e che appunto ricorre anche nelle pagine dei numeri di Sfare che abbiamo potuto sfogliare è quella di Palestine Action. Brevemente, due parole al riguardo. Palestine Action, ormai sappiamo tutti cos'è, un gruppo d'azione diretta britannico che si è posto l'obiettivo di far chiudere gli stabilimenti di Elbit Systems, che è la principale azienda di droni israeliana. Nel far questo ha scelto una strategia di appunto rifiutare in qualche maniera le forme di dissenso controllato, appunto di non limitarsi, non accontentarsi di quello che il movimento per la Palestina faceva nel Regno Unito, dove comunque è storicamente molto forte, sia per il ruolo che ha avuto la Gran Bretagna nell'imperialismo suo e nel creare lo Stato di Israele con appunto la dichiarazione Balfour decenni fa, ma anche per la presenza di comunità arabe, musulmane, e quindi anche comunque di un'istintiva solidarietà nei confronti della causa palestinese, oltre che anche, va anche detto, una tradizione antisionista della comunità ebraica, che si è opposta appunto alla creazione di uno Stato-nazione dal nome di Israele. Questo gruppo d'azione appunto ha scelto delle tecniche che puntavano sul creare un danno a Elbit System. È riuscito nei pochi anni di sua vita, di fatto dalla sua nascita, 4 anni, a ottenere dei risultati concreti, a far perdere dei contratti ad Elbit. Il governo britannico ha fatto ricorso alla legislazione antiterrorismo e ha messo il gruppo al bando. Questa cosa però non ha fermato la loro lotta, perché alcuni di questi ex membri ormai, diciamo, di Palestine Action, cioè membri di un gruppo che è stato disciolto, che si trovano in carcere non con accuse di terrorismo, ma comunque stritolati dalla legislazione antiterrorismo che è stata applicata poi al gruppo, hanno intrapreso uno sciopero della fame. Lo sciopero si è concluso poco tempo fa, fondamentalmente è durato quasi 3 mesi, ed è un fatto che ci ha segnato comunque, penso abbia segnato uno spartiacque anche nel movimento contro la guerra in Europa, sia per la ferocia del governo britannico che di fatto ha scelto a un certo punto di lasciarli morire, cosa che non è successa poi, perché lo sciopero si è interrotto avendo ottenuto una serie di punti che avevano chiesto, il principale dei quali era la revoca di questo contratto miliardario fra Elbit e il governo britannico, ma anche appunto per la determinazione che hanno dimostrato non solo gli scioperanti, ma anche chi nelle piazze e al di fuori li sosteneva. E la cosa è successa con delle campagne di disobbedienza civile, appunto di arresti di massa di persone che dicevano io sostengo Palestine Action, e questa semplice frase, questa frase riportata su cartelli bastava a farli arrestare, a farli, diciamo, a avere un fermo, ma anche appunto azioni dirette fatte da nuovi gruppi che sono nati dalle ceneri di Palestine Action e che hanno continuato a colpire Elbit e comunque tutti quelli che avevano a che fare con la filiera bellica israeliana. Anche l'italiana Leonardo è stata colpita da questi sabotaggi, da queste azioni. Un altro aspetto, diciamo, è stato molto importante di questa mobilitazione è la solidarietà internazionale, che è passata soprattutto dall'adesione di alcuni prigionieri in giro per il mondo a questo sciopero, quindi appunto un gesto di pura e semplice istintiva solidarietà, istintiva ma anche ragionata. Infatti sono usciti vari testi da parte di questi compagni in giro per il mondo che hanno scioperato, chi per alcuni giorni, chi per una settimana, chi ha fatto delle forme, diciamo, di andare in deroga, diciamo, degli obblighi comunque della loro vita di carcerati o semicarcerati, a seconda, diciamo, delle limitazioni che avevano. E ricordiamo comunque che in Italia appunto c'è stato anche Luca Dolce, detto Stecco, che appunto ha fatto uno sciopero della fame in solidarietà che ha fatto anche uscire dei testi, appunto alcuni pubblicati anche sulle pagine di Sfare, rispetto al perché una persona appunto che è in carcere in Italia si sente di dover intraprendere una protesta, una forma di lotta così radicale come lo sciopero della fame, in solidarietà a un movimento antimilitarista dall'altra parte dell'Europa. In conclusione appunto a questa breve precisazione su Palestine Action, ascoltiamo un contributo di un compagno fatto per la trasmissione Bello come una prigione che brucia, in onda su Radio Blackout, che parla di come Palestine Action ha scelto di agire. Torniamo a parlare in differita con un compagno di Palestine Action. Nel precedente approfondimento ci eravamo concentrati maggiormente sulla repressione, in questo invece il focus sarà sulle azioni. La strategia portata avanti e descritta, come vedremo in questi contributi, prevede in parte, in alcuni casi specifici, una sorta di sinergia tra l'azione diretta e la successiva politicizzazione del processo penale. Come ci raccontavano nel contributo della scorsa puntata, il governo laburista di Starmer, il primo governo di pseudosinistra dopo 14 anni di governo i Tories, ha scatenato per la prima volta accuse di terrorismo nei confronti di Palestine Action, anche in seguito a incontri e accordi tenutisi tra funzionari del governo britannico, del governo israeliano e della stessa Elbit Systems, la appunto principale azienda dell'apparato tecnomilitare sionista. Iniziamo con questa prima domanda. Palestine Action sta portando avanti forme di azione diretta contro le proprietà dell'industria militare connessa allo sterminio del popolo palestinese. Oltre a colpire uffici, aziende centrali come Elbit Systems, aziende complici come Leonardo o aziende meno conosciute che producono componenti come Teledyne, state estendendo il raggio d'azione anche alle compagnie assicurative. Hai voglia di raccontarci l'analisi che muove queste pratiche? Palestine Action targets not only Israeli weapons companies, but the companies that allow Israeli weapon companies to operate. Palestine Action prende di mira non solo l'industria bellica israeliana, ma anche le aziende che consentono all'industria bellica israeliana di operare. Senza aziende di logistica, di trasporto su ruota, compagnie assicurative o anche che realizzano semplicemente siti internet e web design, Elbit non potrebbe fare affari nel Regno Unito. Quindi prendiamo di mira tutte le compagnie che sono complici dei profitti di Elbit. Elbit è il principale produttore di droni israeliani e le armi sono al primo posto dell'economia israeliana nelle esportazioni. Sferrando colpi contro Elbit, li sferriamo contro l'impero americano, l'economia israeliana e la macchina da guerra che sta prendendo di mira Gaza. The Israeli economy and the war machine that is targeting Gaza. Rispetto ad altri gruppi di azione diretta, come ad esempio l'Animal Liberation Front, Palestine Action agisce soprattutto in forma pubblica e gli attivisti che prendono parte alle azioni si confrontano direttamente con la repressione. È questa strategia anche un modo per mettere pubblicamente in discussione la relazione tra cosa è legale, produrre e vendere armi usate nello sterminio di un popolo, e cosa è eticamente giusto? We have two major types of actions. One are accountable and one are unaccountable, and both are very effective. Portiamo avanti due principali tipi di azioni, quelle accountable, rivendicate personalmente e pubblicamente, e quelle unaccountable, non rivendicate personalmente da chi vi partecipa, ed entrambi sono molto efficaci. Le prime sono quelle in cui pianifichiamo di venire arrestate e arrestati, e non intendiamo solo affrontare l'arresto, ma anche attraversare tutto il processo e combattere le accuse fino alla fine. Siamo convinti di non essere colpevoli di alcun crimine, ma che Elbit lo sia, e che le nostre azioni servano per prevenire crimini ancora più seri come il genocidio. Quando riusciamo ad affrontare Elbit in tribunale e vinciamo, questo avvicina la fine di Elbit nel Regno Unito. 12 anni fa, nell'Irlanda del Nord, attivisti e attivisti iniziarono a mettere in atto azioni dirette contro Raytheon, un'industria di armi americana complice del genocidio del popolo palestinese in atto da 75 anni. Quando furono sottoposti a processo, il governo non riuscì a mettere insieme una giuria che nell'Irlanda del Nord li condannasse per aver preso una posizione morale contro il settore bellico. E come conseguenza della sconfitta subita da Raytheon in tribunale, l'azienda fu costretta a lasciare il paese. Il nostro piano è di fare lo stesso con Elbit e abbiamo già avuto delle vittorie in tribunale. There is a second type of actions, unaccountable actions. Ones in which we intend to get away. Il secondo tipo di azioni che portiamo avanti sono quelle unaccountable, non rivendicate personalmente e pubblicamente, quelle in cui cerchiamo di non farci beccare. Queste possono essere molto efficaci e sono una parte della nostra strategia complessiva. Consigliamo ad esempio questo tipo di azione alle nostre compagne e compagni negli Stati Uniti, dove per le azioni accountable, pubbliche, come molte di quelle che portiamo avanti nel Regno Unito, hanno ricevuto accuse per reati gravissimi e rischiano condanne fino a 30 anni. Negli Stati Uniti e in altri contesti è importante non farsi beccare e supportiamo completamente questa necessità e incoraggiamo assolutamente le persone a non farsi necessariamente prendere, soprattutto se il contesto di movimento non è stato ancora in grado di sviluppare sufficienti strutture per supportare le persone che vengono arrestate. Quanti attivisti di Palestine Action sono al momento in carcere o sottoposti ad altre misure cautelari e come è possibile sostenerli? Currently we have 15 political prisoners who are incarcerated in UK jails for taking action against what companies complicit in the genocide of Palestine. These 15 brave and noble souls need your support. But don't feel sorry. Attualmente abbiamo 15 prigionieri e prigionieri politici nelle carceri britanniche per aver messo in atto azioni dirette contro aziende complici del genocidio del popolo palestinese. Questi 15 spiriti nobili e coraggiosi hanno bisogno del vostro supporto, ma non sentitevi dispiaciute e dispiaciuti per loro. Al massimo sentitevi in dovere di supportarli e aiutarli. Sono fieri di ciò che hanno fatto e hanno bisogno di persone che li riconoscano come prigionieri e prigionieri politici e dobbiamo tutte e tutti intervenire per ribaltare la situazione in cui si trovano. Ma questa fase è parte della complessiva lotta contro l'imperialismo e dovranno essere fatti dei sacrifici lungo il percorso. And there will have to be sacrifices along the way. Beh, questa intervista comunque va il caso di dirlo, che specificarlo, che è stata fatta prima della messa al bando di Palestine Action, quindi alcune riflessioni appunto che abbiamo fatte dicendo per il Regno Unito questo non vale, invece col tempo probabilmente le valutazioni sono anche mutate, in effetti la linea di Palestine Action o di quello che ne è seguito dopo nel Regno Unito è anche cambiata. Però diciamo che al di là di quello che può essere l'interesse, diciamo, voyeuristico per quello che succede nel Regno Unito, è interessante il fatto che si sia scelto questo piano di azione appunto concreta contro la materialità della guerra a casa, appunto le fabbriche di armi, come esempio più diciamo, visibile, più anche semplice da capire, da spiegare di cosa significa che la guerra parte da qui. E c'è da dire che anche l'ultima ondata di mobilitazione della Palestina ha un po' sedimentato questo bisogno di fare qualcosa di più incisivo e stanno iniziando a far capolino comunque anche varie opposizioni territoriali o comunque specifiche su singoli progetti bellici. E uno, vabbè, che menziono è il progetto Eris a Forlì, dove appunto sta cominciando a prendere a piede una mobilitazione appunto contro questo progetto di cittadella dell'aerospazio portata avanti da una multinazionale bellica francese e col coinvolgimento però anche dell'italiana Leonardo. Però diciamo, l'idea, il bisogno di mappare e di mettere a fuoco quello che è il tessuto bellico qua è qualcosa che sta emergendo da più parti. Sì, appunto nel numero di disfare che adesso è in stampa e sarà disponibile, potrà essere ordinato. Tra l'altro ricordo, poi magari lo diciamo dopo, però che c'è un'email che è disfare@autistici.org a cui si possono richiedere copie del prossimo numero, ma anche dei numeri precedenti. Appunto, in Disfare abbiamo una sezione che si chiama Tecnica e Guerra, che si concentra appunto sul rapporto fra la tecnica moderna e la guerra. E in questo numero che sta per uscire dedichiamo questa sezione al discorso appunto della necessità di mappare e conoscere il tessuto bellico nei luoghi in cui viviamo. Sicuramente i moti d'ottobre, le mobilitazioni contro il genocidio sionista, avevano aperto degli spazi piuttosto importanti, impensabili per agire concretamente contro il genocidio, e in alcune situazioni sono stati ampiamente queste opportunità sono state colte e sfruttate anche grazie alla generosità e alla determinazione di tante persone, compagni e compagni che si sono spesi. Poi quei moti adesso si sono un po' richiusi, diciamo, quegli spiragli sembrano essere chiusi, ma non è difficile pensare che nello stravolgimento dell'ordine mondiale, col crollo dell'egemonia occidentale, si apriranno nuovamente grosse fratture e quindi anche la rabbia popolare tornerà a invadere le strade e secondo noi in quelle occasioni sarà importante mettere a frutto un lavoro di preparazione e di studio per rendere efficaci e puntuali gli sforzi per inceppare la macchina della guerra. Per questo appunto riportiamo ad esempio un contributo dalla Germania molto interessante che oltre a dei consigli diciamo un po' più pratici per come poter studiare quello che si muove nella propria città rispetto alla guerra, dà anche alcuni spunti un po' teorici, perché secondo noi l'idea di insomma andare a studiare un po' il tessuto della produzione bellica fa vedere da una parte quanto la produzione tecnologica e la produzione industriale sia legata alla guerra e quindi fa vedere come l'idea di poter semplicemente disarmare la produzione industriale togliendone gli aspetti bellici sia diciamo poco possibile e appunto dall'altro sicuramente suggerisce delle possibilità di intervento magari un po' più lontane dai riflettori, perché sicuramente mettersi contro ai grandi colossi, per quanto sacrosanto e giustissimo, però ovviamente ha anche no, insomma, sono strutture, sono aziende. Pensiamo a Leonardo in Italia che sono estremamente protette, difese, e invece diciamo, il sistema della produzione bellica ha tanti colli di bottiglia, ha tante fragilità, essendo che tante delle aziende hanno bisogno di mettere insieme componenti molto diverse che arrivano da filiere complesse che attraversano tante frontiere, ci sono dei punti in cui insomma basta soprattutto per la produzione di sistemi militari grossi, basta che un singolo componente non arrivi per fare sì che l'aereo da guerra o il drone non possa essere prodotto. Quindi secondo noi è anche interessante provare a pensare come agire concretamente e quindi come collettivamente o individualmente ricercare questi punti più nevralgici e più esposti. D'altra parte è un suggerimento interessante quello che si diceva prima nel contributo del fatto che ci sono più modi di mostrare dissenso. Uno di questi è quello, è una attività di massa, un attivismo di massa che soprattutto in tempi come quelli in cui nasce e si applica il DDL, capiamo che uno dei mezzi di semitutela può essere quello di fare delle azioni in grande massa, prendersi la responsabilità di avere una repressione di massa che quindi in un qualche modo può attenuare la repressione. Sì, sul tema del tessuto bellico, proprio per il fatto appunto che trasmettiamo dal territorio del Veneto, c'è un opuscolo molto interessante che è uscito questo inverno, che ha preso le prime mosse proprio per il fatto che nel 2022 il Veneto è stata la prima regione italiana ad approvare un protocollo per lo sviluppo di tecnologie innovative per il trasporto aereo a bassa quota. Sostanzialmente si tratta della mobilità aerea aumentata. La mobilità aerea aumentata cos'è? Non sono solo droni, ma sono velivoli che hanno atterraggio e decollo verticale, sono elettrici o a idrogeno, comunque non a scoppio, hanno anche più di un'elica, insomma sono... È tutta un'area, diciamo, dell'aeronautica, come può essere la micromobilità in città con i monopattini elettrici, più o meno. Solo che è molto più agghiacciante. E agghiacciante perché? Perché questa mobilità aerea avanzata si pone degli obiettivi e comincia a intrecciare rapporti con aziende che sono sia su questo territorio, ma anche aziende israeliane. Diciamo che nel quadro generale gli obiettivi comportano il trasporto di persone in ambiente urbano ed extraurbano, chiamati air taxi, il trasporto di merci generiche e materiale biomedicale, l'ispezione e la mappatura di aree di infrastrutture e il supporto all'agricoltura. Questi sono in realtà il grande obiettivo. Poi ci sono i piccoli passi da cui ha cominciato a muoversi un po' appunto la regione Veneto. E si è cominciata a muovere su due progetti, diciamo, abbastanza grossini, che entrambi prevedono la partecipazione del polo ospedaliero di Padova. Perché? Perché una delle prime mosse da cui muove la motivazione di tutto questo progetto, perché è un progetto anche bello grosso, deve accordare, non solo deve farsi spazio nella burocrazia, nella legiferazione dello spazio aereo, della gestione di merci senza autista e così via, ma appunto deve irrorare il territorio di sensori, di cablature e insomma di tutte le possibilità a che questo progetto prenda piede. E l'ospedale, sostanzialmente il nuovo polo ospedaliero di Padova già prevede nel suo progetto un vertiporto, che non sono più aeroporti ma sono vertiporti quelli che accolgono questi velivoli. E sostanzialmente sono velivoli che vanno a idrogeno, idrogeno ottenuto per elettrolisi con i pannelli solari montati all'interno dell'ospedale, quindi avrà la propria risorsa energetica all'interno, senza entrare nei dettagli di quello che questo comporta a livello poi di utilizzo di energie, soldi spesi, schifezze sparse per tutto il mondo. Quello che ci si aspetta sostanzialmente è l'inizio in Veneto di una rete aerea, inizialmente data in mano più o meno all'Istituto Sanitario Nazionale, diciamo. E a partire da questo, in realtà, scatta poi il secondo progetto, che va un po' a ampliarsi, va un po' oltre l'aspetto medico. L'opuscolo è bello perché fa un ragionamento sul dual use, perché questo dual use che giustifica sempre la produzione della nuova tecnologia, in realtà in questo campo è un po' così, perché c'è di mezzo addirittura direttamente un'azienda israeliana a collaborare con il progetto. Quindi cioè, un po' difficile vederci solo un obiettivo civile in tutto questo. Sono espliciti, dai, vogliono aiutarci. Esatto, l'obiettivo finale, diciamo, si legge sull'opuscolo, è attivare un collegamento stabile di 80 km tra l'ospedale di Castelfranco Veneto e i presidi medici di Padova. Questo è proprio il primo piccolo passo, che dà, il via poi al resto. Il resto sarebbe anche il secondo progetto, che si chiama Sky 53. Sky 53 è invece un progetto di concessioni autostradali venete che prevede l'utilizzo di droni a pilotaggio remoto per il monitoraggio del traffico, delle infrastrutture autostradali e della sicurezza stradale lungo la rete veneta. L'obiettivo è sfruttare, leggo direttamente, tecnologie avanzate per acquisire in tempo reale i dati sull'infrastruttura e rilevare eventuali anomalie. E è stato presentato ufficialmente già nel 2022 questo progetto. Le prime idee risalgono già a prima della pandemia, al 2019, e silenziosamente sta progredendo. Un po' sulla questione allora, il progetto Sky 53 si suddivide a sua volta, perché c'è anche il progetto Sky Traffic, che prevede il controllo non solo della rete autostradale, ma della tangenziale di Mestre e le infrastrutture urbane cittadine del Veneto che accetteranno di rientrare in questo progetto. Ecco, l'opuscolo parla di tutte queste cose, nonché menziona le aziende coinvolte e le istituzioni coinvolte. Molto interessante. Ripetici un po' come si chiama l'opuscolo. Mobilità aerea aumentata, il boom del Veneto. A me fa un po' sorridere il fatto che sempre la motivazione di queste sperimentazioni vere e proprie sia sempre quella di essere funzionali al miglior funzionamento delle stesse reti autostradali, quando non viene assolutamente menzionato il controllo sulle vite degli individui che di conseguenza poi ne viene fatto, mi fa venire in mente la stessa cosa che succede per esempio ai lavoratori di Amazon che sono sotto controllo tutto il giorno, 24 ore, e per sorvegliarli. Oltre alle telecamere vengono usati dei veri e propri interrogatori di figure professionali atte a fare queste intimidazioni più che interrogatori e lì ancora più esplicito e meno celato, spesso le persone che tengono questi interrogatori alla fine vengono dall'ambito militare o comunque sono generali veri e propri o membri dell'esercito. Per un periodo Amazon vendeva una telecamera che si metteva sui campanelli, che serviva per la sorveglianza, diciamo, tu ti compravi questa cosa per poter sempre vedere, no, fuori da casa tua cosa succedeva. E poi si è scoperto, non so se è ancora in commercio, però si è scoperto che non solo questa telecamera comunicava dati alla polizia, quindi la polizia aveva accesso diretto a tutto questo sistema di telecamere che i privati si mettevano fuori casa, ma che Amazon utilizzava quelle stesse telecamere per monitorare il lavoro di chi andava poi a consegnare i pacchi nelle varie case che avevano questa cosa qua. E questo dice un'altra cosa, cioè che la gestione militare, la gestione dei lavoratori sono anche lì cose, diciamo, che vanno insieme storicamente, no? Cioè, sì, la gestione, diciamo, l'idea dell'automazione e della sorveglianza del lavoro, le tecniche di automazione nascono dalle tecniche coloniali di sorveglianza dei lavoratori. Quindi c'è proprio un filo diretto che passa dalle colonie alle fabbriche, all'automazione delle fabbriche, fino a queste forme di sorveglianza Sì, moderna. e che ci fa appunto rispetto a quello che si diceva prima, con l'inganno che è un servizio offerto a te, utente, o a te, un utilizzatore, lavoratore di questa cosa, in realtà è un mezzo di controllo che poi serve purtroppo per le guerre. Sì, tra l'altro, volendo anche appunto vederla da un punto di vista, diciamo, maggiormente storico, no? La più grossa ribellione contro quella che è stata l'inizio dell'automazione, cioè nel senso luddismo, è stata repressa militarmente dall'esercito, usato in chiave controinsurrezionale nelle proprie città, un esercito che poi veniva, diciamo, rodato nelle guerre coloniali, come nelle guerre, diciamo, di conquista o comunque di potenza del Regno Unito. E, però per, insomma, contestualizzare questo opuscolo sulla, appunto, l'aeronautica verticale, è interessante appunto rendersi conto, e penso che il passaggio che fanno sul fatto come venga un progetto, diciamo, che è focalizzato sul sanitario, venga esteso poi alla sorveglianza stradale. Le implicazioni ulteriori sono ovviamente a cascata, cioè nel senso il fatto che magari progressi in ambito di questo tipo hanno influenze sull'ambito strettamente militare, perché appunto attraverso anche delle start-up, comunque delle aziende israeliane che ovviamente in quel settore lì hanno dei contatti diretti sicuramente, insomma ci metto anche la mano sul fuoco senza saperli, però ci saranno dei contatti con Elbit piuttosto che con altri gruppi dell'aviazione israeliana, del comparto, diciamo, dell'aeronautica. Però è interessante per dire come recentemente in Francia i droni sono stati usati per la sicurezza delle ferrovie, sicurezza non per il monitoraggio, diciamo, dei dati, dei guasti che accadono costantemente, provocano anche degli incidenti fra chi ci lavora nelle ferrovie, ma in chiave antisabotaggio, appunto. È stata fatta questa sperimentazione prima di uno degli ultimi scioperi generali, per cui appunto un'azienda privata aveva avuto l'appalto dalle ferrovie nazionali francesi di monitorare quello che succedeva nella notte prima con i droni, in modo da evitare che ci fossero dei sabotaggi, che in Francia come altrove, diciamo, stanno moltiplicando anche rispetto alle ferrovie. Io volevo dire solo, mi veniva in mente solo un'altra cosa rispetto al discorso sorveglianza, lavoro, guerra, che il panopticon, che diciamo è l'immagine del controllo totale, che viene usato anche nel discorso, si pensa che abbia un'origine carceraria, perché è Foucault che l'ha popolarizzato come carcere in cui, ma in realtà ha un'origine industriale. Cioè, chi deve essere originariamente sorvegliato costantemente sono i lavoratori, e il tipo di sorveglianza che il panopticon rende, diciamo, architettonica è quella coloniale. E quando tu, datore di lavoro, assicuri questo tipo di trattamento, alla fine diventi un affidabile anche per tutte quelle infrastrutture e industrie di guerra, quindi Amazon stesso. Banalmente, spesso ho sentito questa cosa, che i pacchi Amazon, per esempio, per arrivare in carcere hanno una grande facilitazione ad entrare, perché assicurano un ipercontrollo sulle cose. Ci ascoltiamo un pezzo e torniamo alla puntata di Ponte Radio, conduzione Radio Eustachio. Жить тяжело. Appunto, quelli che abbiamo visto adesso sono anche degli esempi con Palestine Action di sabotaggio di fatto dell'infrastruttura bellica, militare, e questo, il sabotaggio appunto sta ricomparendo in Europa di fatto, fra l'altro è sottoposto anche a una forte campagna mediatica in alcuni contesti in cui viene dipinto come inevitabilmente diciamo, arruolato all'interno di qualche campo imperialista e comunque va detto esiste anche quella forma nel senso di guerra appunto ibrida per cui appunto ci sono gruppi collaterali o diciamo diretta emanazione di forze statali che agiscono dietro le retrovie. Quello che però per fortuna avviene anche è che c'è una reale opposizione, diciamo, di chi è governato contro il proprio Stato e governo nel cercare di impedire che si vada verso una guerra o comunque inficiare quello che è il funzionamento quotidiano della guerra nei territori, che passa quindi anche dalle vie di comunicazione. E un fatto che qua in Italia ha fatto molto, diciamo, scalpore mediatico è stato il sabotaggio della linea ferroviaria in concomitanza con l'inizio delle Olimpiadi, di cui è uscito oggi anche una rivendicazione che appunto lo ricollega direttamente all'opposizione alla guerra. Sì, non oggi, un paio di giorni fa, però sì, è uscito con un po' di confusione perché c'è stato un attimo di malinterpretazione di un altro scritto uscito Era un commento che era, sì, fondamentalmente. esatto, una riflessione su quanto accaduto, perché ovviamente è stato un atto che ci ha ricordato anche quello avvenuto a Parigi, Sempre prima, durante le Olimpiadi. sempre pre-Olimpiadi, atto proprio a impedire alle persone di prendere il treno per Parigi in quel momento, quindi molto incisivo. Un paio di giorni fa poi è uscito un testo che rivendicava l'azione con le sue motivazioni. Ma diciamo, le forme appunto in cui ci si può opporre sono molteplici. Un'altra cosa che è ricomparsa oltre al sabotaggio in Europa è anche lo sciopero generale come strumento di chi è oppresso, di chi è sfruttato di ribellarsi. Li abbiamo visti con gli scioperi politici per la Palestina. Recentemente c'è stato un altro sciopero del tutto politico, quindi diciamo slegato da o comunque non focalizzato su questioni meramente economiche, che è stato lo sciopero dei portuali, che ha interessato 21 porti dell'Europa e del Mediterraneo. E che aveva come diciamo, punti principali l'opposizione ai traffici di armi e la richiesta anche di un embargo nei confronti di Israele, appunto contro la sua condotta genocidiaria. L'altro elemento che ritorna, e noi appunto all'inizio puntata, anche ascoltando questi contributi sull'Ucraina e sulla Russia, parlavamo della diserzione, appunto del fatto che in quelle zone, in quei paesi che sono impegnati in uno scontro frontale, appunto l'arruolamento è una minaccia concreta per la popolazione, soprattutto ovviamente per le classi sfruttate. E questa cosa però si sta riaffacciando anche nei paesi più a ovest. In Italia la cosa, diciamo, è ancora un po' nell'aria, nel senso che si inizia a parlare, ma in Germania è già diventata una realtà concreta, nel senso che si sono proprio varate delle leggi che la renderanno in maniera graduale obbligatoria. Mi pare che i primi coscritti saranno quelli inizieranno nel 2028. E però c'è chi appunto ovviamente non aspetta quella data con le mani in mano, ma inizia un attimo anche a capire cosa fare di concreto. C'è stato un primo sciopero studentesco a dicembre che ha avuto molto successo, si parlava di 50.000 studenti scesi in piazza e ce ne sarà un altro a marzo, delle giornate di sciopero a marzo. E insomma, guardando anche in maniera un po' frettolosa siti di movimento tedeschi, vediamo che comunque cominciano a comparire anche delle chiamate ben precise, perché appunto l'11 e il 12 aprile 2026 ci sarà un congresso contro la coscrizione obbligatoria a Kassel, l'1 e 6 settembre ci sarà un campeggio di lotta a Colonia contro Rheinmetall, che è fondamentalmente diciamo la Leonardo tedesca, comunque la principale fabbrica bellica tedesca, e dal 24 al 26 settembre ci saranno delle mobilitazioni ad Amburgo contro le manovre della NATO previste in quei giorni. Quindi appunto la Germania è locomotiva d'Europa, locomotiva anche del riarmo europeo, che ha comunque delle difficoltà in generale anche a livello diciamo, di crescita, ma anche comunque diciamo, il suo percorso sta un po' traballando rispetto appunto a questo viaggio all'impazzata verso la guerra mondiale. Sì, a proposito di questo, nel numero di Disfare che uscirà, appunto, che è in stampa in questo momento, pubblichiamo un contributo da Amburgo di alcuni compagni anarchici che raccontano un po', appunto, quello che si sta muovendo rispetto alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio e anche quello che si dà da un punto di vista delle proteste, degli scioperi contro il servizio militare obbligatorio, la reintroduzione della leva. È interessante perché anche in Germania, appunto, la leva era stata sospesa e quindi questi compagni che si trovano adesso a ragionare su questi temi sentono di dover recuperare una storia di obiezione totale, che anche in Germania è una storia principalmente anarchica, di doverla appunto recuperare e rendere disponibile e viva nel presente. E noi l'abbiamo provato a dare il nostro piccolo contributo in questo senso su questo numero, perché c'è un testo molto bello di un compagno, Massimo Passamani, che è in carcere a Trento, che negli anni 90 era obiettore totale, quindi rifiutò il servizio militare e anche il servizio civile sostitutivo. E poi pubblichiamo, avevamo parlato prima da Senza Patria, che era la rivista anarchica italiana che seguiva appunto le vicende e la solidarietà agli obiettori totali. Abbiamo voluto riprendere dalle pagine di questa rivista e da altre riviste alcune delle dichiarazioni che questi compagni facevano quando dichiaravano, perché il rifiuto della leva era qualcosa di estremamente pubblico. Gli obiettori appunto dichiaravano pubblicamente quella che veniva chiamata la loro non sottomissione, e poi iniziavano dei periodi di latitanza in cui magari parlavano pubblicamente nelle piazze. E quindi ci sembrava appunto importante, anche in vista del fatto di dover rendere concreta la nostra solidarietà rispetto alle scelte individuali di non collaborazione che si potranno dare in futuro qui da noi, come si sono date in Ucraina in questi anni, con tantissime persone che hanno deciso di appunto farsi di nebbia di fronte all'obbligo di andare a diventare carne da cannone al fronte. Quindi appunto secondo noi è importante... Sì, recuperare queste storie, farne storia viva per ispirarci nel presente. Sì, un elemento che magari secondo me ci sta a ricordare, perché appunto è anche emblema di come ci sia una continuità fra la guerra esterna e la guerra interna. Non tutti sanno che la depenalizzazione dell'obiezione totale in Italia è avvenuta dopo una legge che è stata ribattezzata legge Cospito, perché avveniva dopo uno sciopero della fame dell'anarchico Alfredo Cospito, che era in carcere appunto per la sua obiezione all'arruolamento, e appunto Alfredo Cospito, che è tuttora in carcere però nel regime di 41 bis, fondamentalmente per le cose che ha scritto e quindi nemmeno per le cose che ha fatto, per cui ha già scontato. Sì, un'altra cosa che mi veniva in mente è che appunto negli anni dell'obiezione totale in Italia spesso queste scelte venivano criticate in quanto da una certa sinistra, in quanto scelte individuali, e ovviamente le scelte di non collaborazione individuale da sole non bastano, perché devono essere accompagnate da tanto altro, ma sono preziose, quindi diciamo anche in un'ottica di valorizzare molteplici forme di opposizione alla guerra ha senso appunto perseguire azioni di non collaborazione individuale e accompagnarle invece con prospettive dirette di opposizione e di conflitto. I'm parlare delle forme, diciamo, pratiche della diserzione, dello sciopero, del sabotaggio, non possiamo però anche nasconderci il fatto che queste forme pratiche sono costantemente, sempre di più, al centro di una forte repressione che assume le forme, passa attraverso le forme pratiche dell'antiterrorismo. E, rispetto a questo, adesso ascolteremo un contributo di un compagno del collettivo Urria di Pisa, che parla della vicenda di Anan Yaesh, che è stato recentemente condannato per la sua partecipazione alla resistenza palestinese in Cisgiordania, e però attraverso questa vicenda, anche attraverso, usandola un po' come anche una sorta di prisma, va a guardare la repressione, diciamo, più totale che sta subendo il movimento italiano. Ciao a tutte e tutti, grazie di questo spazio, di questa possibilità. Condivido con voi alcune riflessioni sulla sentenza di primo grado nei confronti di Anan e anche sul contesto repressivo che decreto dopo decreto, disegno di legge dopo disegno di legge, soprattutto governo di centrodestra dopo governo di centrosinistra, in totale e coerente continuità, viene un po' dispiegandosi, costruendosi in questo paese. Sorvolo, per motivi di tempo, sulle recenti operazioni repressive che hanno portato agli arresti della fantomatica cellula italiana di Hamas, prima ancora dell'imam di Torino, nel CPR di Caltanissetta. Oggi è libero, ma non sa ancora bene cosa sarà della sua libertà e soprattutto della sua vita e della vita della sua famiglia. O per citare un altro caso della detenzione di Ahmed Salem, un altro caso kafkiano. Ahmed è attualmente detenuto nel carcere di Campobasso e è il primo ad aver sperimentato la nuova fattispecie di reato che è appunto il terrorismo della parola. Molto, moltissimo ci sarebbe da dire su come oggi i soggetti razzializzati siano sempre di più destinatari iniziali di processi repressivi che poi inevitabilmente e intenzionalmente si allargano a settori significativi della popolazione. Ma non c'è tempo, non è questa la sede, quindi torno al contesto repressivo, al clima repressivo cui accennavo prima, per partire dalla guerra. Guerra che non è più sfogo possibile, ma remoto, lontano di una tensione globale che è già dispiegata in alcuni teatri regionali, ma guerra che è realtà presente anche qui da noi, immanente in ogni decisione del governo. Guerra che è approdo di una crisi capitalistica che scatena su tutto il pianeta lo scontro interimperialistico e che richiama ed esige uno stato di polizia diffuso in cui mediazioni e interlocuzioni saltano, in cui i corpi intermedi vengono bypassati e condannati all'irrilevanza, in cui il piano locale è superato costantemente da quello centrale, centralizzato, e in cui le agibilità politiche sono azzerate o quasi. Il caso di Askatasuna, sgomberato dall'alto, appunto dal potere centrale, in una fase in cui al centro c'era proprio la mediazione, l'interlocuzione, l'accomodamento con le istituzioni, è rappresentazione plastica di questo processo. Cioè lo Stato capitale non tollera più un contratto sociale nato in una fase di crescita economica passata, 30 gloriosi, le lotte operai, eccetera, che oggi però è in crisi. Crisi di valorizzazione a cui si risponde da una parte con l'estrattivismo e il neoschiavismo e dall'altra con la guerra e la repressione del conflitto e dell'eccedenza. Per ripristinare un quadro di comando totale sulla produzione e sulla riproduzione, che devono essere spoliate qualsiasi potere negoziale e irregimentate nell'economia di guerra, è ovviamente necessario mettere mano anche al quadro giuridico, al quadro legale. E a questo proposito sembra quasi che la sovversione abbia cambiato campo. Viene in mente per l'appunto il sovversivismo delle classi dirigenti di cui parlava Gramsci. I sovversivi sono appunto loro che spostano ogni giorno più in là, un po' più in là, il limite del potere del padrone e del gendarme. La controparte, quindi, che si erge costantemente sopra la sua stessa legge per superarla. E non lo fa in preda all'ideologia, che pure esiste, ma sulla spinta, sostanzialmente sulla spinta trasversale da destra a sinistra di assecondamento dell'economia di guerra, appunto. Aumenta il potere della polizia, dei questori, dei prefetti, aumenta la discrezionalità, l'arbitrio della polizia, che ora sgombera, sfratta, interdice, trattiene, tra l'altro senza passare più delle volte nemmeno dal giudice, con un arbitrio che con un gioco di parole può essere definito liberal arbitrio, perché si dà ancora in una cornice liberale, democratica, per quanto insomma traballante. Ora, chiaramente in tutto ciò Israele diventa una fonte di ispirazione preziosa per il legislatore nostrano, che trova appunto nella colonizzazione sionista un vasto repertorio tecnologico e non di metodi, strumenti, strategie repressivi che possono essere reimpiegati, calibrando ovviamente il dosaggio, nei contesti più disparati, anche alle nostre latitudini ovviamente. Quindi non è un caso che da Washington a Roma, dall'AIS alla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, vadano un po' tutti a scuola dall'IDF. La famosa strategia israeliana ribattezzata cutting the grass, falciare il prato, curare il giardino e difenderlo dalla giungla che lo insidia, ecco, questa strategia che scatena il massimo di potenza repressiva contro anche forme embrionali di resistenza, questa strategia israeliana ha fatto scuola e dilaga. E quindi dai fuochi di resistenza di Nablus, di Jenin, alle proteste pacifiche di Minneapolis o di Sydney, fino ai sabotaggi di Palestine Action, ogni azione di resistenza è un filo d'erba che si staglia più in alto sul livello del prato e che diventa perciò un esempio pericolosissimo che può contagiare e pertanto va estirpato, appunto come un'erba cattiva. Nuovo decreto, Piantedosi, benedetto dal sempreverde Mattarella, oltre alle fattispecie di reato e all'inasprimento delle pene per i reati già esistenti, sdogana definitivamente la presunzione di colpevolezza per tutti quei soggetti, militanti, proletari, irregolari, che possono essere ora interdetti da città o da intere aree urbane, trattenuti per 12 ore nelle questure o sanzionati con multe fino a 20.000 euro. Aumenta, evidente, il potere amministrativo anche su quello penale. E attenzione perché il vantaggio della depenalizzazione di alcuni reati è solo apparente, è per lo più un effetto ottico, cioè va tutto a beneficio dello Stato che con un colpo solo alleggerisce il lavoro dei tribunali, va a colpire ferocemente i conti correnti dei sanzionati, fa sempre di più iniziare la vicenda repressiva dalla fine, ovvero dalla sanzione economica o di altra natura. Perché a quanto ci risulta non esiste un gratuito patrocinio per il ricorso al TAR, quindi la difesa di chi riceve una sanzione è sempre un percorso in salita. Questo si dirà, già accadeva coi decreti penali di condanna, i DASPO, i fogli di via, eccetera, è vero. Ma questo dispositivo si fa sempre più sistema. E ovviamente è un bel problema, anche per l'effetto deterrenza che produrrà nelle piazze e nei singoli. A mio avviso, per fare fronte a questo tsunami repressivo che va crescendo, più prima che poi dovremo rimettere mano alla questione dell'organizzazione. Organizzazione ovviamente con la O minuscola, organizzazione senza organigramma, da intendersi certamente come organizzazione dei compiti, chiamiamola insomma come vogliamo, ma capace di creare le condizioni per la tenuta e possibilmente anche per la crescita dei livelli di conflitto. Concludo dicendo due cose su Annan. Ora, il 16 gennaio scorso il tribunale dell'Aquila lo ha condannato a 5 anni e 6 mesi. È una sentenza che quasi raddoppia quella che anni fa nella Palestina occupata, un tribunale sionista gli aveva comminato per la stessa accusa, più o meno la stessa accusa di terrorismo. Una condanna certo più lieve di quella richiesta dalla PM, ma comunque alta, se si parte poi dall'assunto che di processo politico si tratta. quindi di un processo non si sarebbe mai dovuto tenere. Una condanna che trova alcune anticipazioni all'inizio della vicenda, già nella premiazione di Gossini che avevano condotto gli arresti, e agli sgoccioli della fine del processo, nella scorta affidata alla giudice e alla PM, no? Tutto funzionale alla creazione di un clima di tensione in cui i terroristi sono assicurati dalla giustizia e i giudici chiamati a processarli vengono messi al riparo dalle pericolose proteste dei solidali. Quindi con un copione così, al netto del gran lavoro fatto dalla difesa e dall'importanza anche della rete di solidali che si è stretta nel tempo intorno ad Anan, con un copione così non poteva esserci certamente un lieto fine. Del resto si è trattato di un processo calato dall'alto, di concerto tra autorità sioniste che hanno fornito il canovaccio dell'accusa e quelle israeliane che, non sempre senza intoppi, lo hanno portato in tribunale. Israele, testimone e mandante del processo, nella figura di un ufficiale dello Shin Bet collegato all'ambasciata a Parigi, è salito addirittura, perché comunque c'era e c'è un genocidio in corso, addirittura è salito sul banco, non degli imputati, ma su quello dell'accusa. Che dire? Anan ricorrerà in appello, sicuramente ricorrerà in appello, poi vedremo, 2 anni li ha già scontati, per l'estate 2027 potrebbe già uscire. L'importante è continuare a sostenerlo, a scrivergli e a tenere il suo nome, insieme a quello degli altri e delle altre prigioniere, vivo nelle piazze. Ali e Mansour, lo ricordiamo, estranei completamente alla vicenda contestata, gli sono stati assolti. Ciò ovviamente ci fa piacere. Dopodiché Mansour ha perso la protezione internazionale, o meglio gli è stata revocata, e Ali ad oggi è senza permesso di soggiorno. Io mi fermo qua, mi sembra di aver detto non tutto ma abbastanza, almeno rispetto, diciamo, a il contorno, il contenuto dell'articolo che a breve uscirà, e niente, vi ringrazio e vi saluto. Cassa. Mi viene il vomito al pensiero che è un paese lontano vicino da me. Sganci, missili e bombe su scuole, so giù che un popolo e nulla si muove. Mi sento sopraffare da un pensiero atroce. C'ha presa gli assunti un popolo che non ha voce. Dividi e t'impera, chi tace non si schiera. Chi prega là, chi spera, chi invece va in galera. Perché difende la libertà di un popolo e non si piega a un dittatore senza scrupolo. Sradicheremo il colonizzatore come l'ederà. Noi canteremo Palestina libera. Come lederà, noi canteremo Palestina libera. E sicuramente, appunto, come ha spiegato bene questo contributo, la tendenza alla guerra rende tutto più spinto, più accelerato, anche appunto il linguaggio si fa più duro. E una frase che è di questi giorni, rispetto appunto alle proteste a Milano contro i Giochi Olimpici, è quella di Meloni, che ha detto, chi manifesta appunto contro i Giochi Olimpici è un nemico dell'Italia. Quindi appunto è un nemico della patria, un nemico dello Stato, di quella patria, di quello Stato che ti vuole arruolare, che ti vuole appunto compresso dentro un'economia di guerra. E c'è da dire che se la sinistra parlamentare, comunque la sinistra, è stata fino adesso sull'Ucraina, per dire, estremamente interventista, molto a favore dell'invio di armi, la destra si diciamo, per scelte tattiche, ovviamente, si divide fra chi, diciamo, è passato a essere, diciamo, da sovranista a parole, però, diciamo, subalterno nei fatti della NATO nel momento in cui è arrivato al governo, come Fratelli d'Italia, e che invece chi cerca di raccattare un consenso posticcio fra l'elettorato deluso, riciclandosi come appunto anche oppositore all'invio di armi, per esempio a Zelensky, infatti Vannacci, che ha fatto questa scissione dalla Lega, notizia di queste ore, appunto ha portato come slogan basta soldi a Zelensky, più soldi per cosa? Però per la sicurezza degli italiani. Quindi comunque alla fine quello che compatta tutto quel fronte di destra, ma non solo, perché comunque anche la sindaca di Genova Salis ha detto appunto che bisogna sdoganare la parola sicurezza, che non è una cosa solo della destra, però appunto è quel tipo di narrazione securitaria, e nel caso dei gruppi, diciamo, fascisti, è quella parola d'ordine che arriva dagli Stati Uniti, che è stata fatta proprio anche dal neofascismo e neonazismo europeo in Europa, che era emigrazione, che di fatto è qualcosa che già, nel senso, le deportazioni sono una quotidianità e vengono fatte dai CPR, vengono fatte dai centri per l'espulsione, che sono in aumento, anche c'è sempre nuovi progetti di costruzione, sono i centri in Albania, però appunto c'è questa campagna che è stata fatta, che è parte, se vogliamo, anche della guerra civile globale che è in atto, che passa appunto dalle retate dell'ICE, come appunto da queste manifestazioni, questa proposta di legge che è stata fatta fra l'altro con la firma digitale, quindi è stata accelerata anche dalle innovazioni tecnologiche, e questa proposta di legge, che è un pretesto anche per gruppi neofascisti di scendere in piazza, stanno facendo questa cosa adesso di manifestazioni nazionali in singole città. E la prossima sarà a Bolzano, e come sembrava importante usare anche questo spazio radiofonico per darne notizia, ci sarà una contromanifestazione alle 15:30 in piazza del Municipio a Bolzano, il 28 febbraio, a cui appunto diamo notizia per invitare alla partecipazione. Lovely area before you come here, lovely. For the poor, pizza with a side of misery. Teacher said when I leave, no one here will miss me. Didn't know I was a sinner, but if they say so, well I must be. Big lips, white nose, God knows no one will trust me. Mum don't look like me, but thank God she still loved me. Neighbors called me nigger, told me go back to my own country. Said since we arrived, this place has got so ugly. But this is my fucking country, and it's never been fucking lovely. We didn't appear, I've been here. We live here. Town, have a drink and puff your chest out. Not a racist, you're just proud. Why should you be left out? The fairies get a march and the knickknacks get a month. We've got the right to vote. I mean, what more could we want? Free to go where I like, if I look like I belong. If not, fuck off. Go on, boy, move along. Remember Stephen Lawrence? He too was free to roam. 18 years old at the bus stop, murdered on his way home. We didn't appear. I was called nigger, I was about 7 or 8 years old. I was playing across the street and one of the older kids called me. I went home for bath time a little later and asked my mum what it meant. My white mum, she told me it was a bad word. We didn't appear, I've seen it. We live here. siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Ponte Radio e ringraziamo insomma chi è venuto qua, oltre che chi ha mandato i contributi da altre città. E vabbè, se volevi dire qualcosa in conclusione a chi ci ascolta, che ha scoperto appunto l'esistenza anche di questo bollettino, di questo strumento cartaceo, diciamo, che vuole provare a rilanciare l'opposizione alla guerra anche qua da noi, se vuoi dire qualcosa al riguardo. Allora sì, innanzitutto insomma mi sembrava importante sottolineare un po' una cosa che forse non è emersa tanto dai discorsi che abbiamo fatto, che è diciamo, un accenno al disfattismo che fa parte, diciamo, dei presupposti di questo progetto editoriale. Fin dal titolo, fondamentalmente. Fin dal titolo, esatto. No, e adesso anche in un contesto in cui... insomma, fra i vari imperialismi regionali, globali, è facile che le proprie, no, creare situazioni in cui quello che si fa viene reclutato poi da un fronte piuttosto che da un altro. Sì, nel momento in cui il detrimento di uno è il vantaggio di un altro, questa cosa è anche, diciamo, insopprimibile in qualche maniera. Esatto, secondo noi è importante mantenere, diciamo, la barra dritta sul disfattismo, e se ovviamente appunto il nostro nemico principale è l'Occidente, è l'imperialismo, è il potentato di casa nostra, allo stesso tempo non pensiamo che ci siano poteri buoni da altre parti e che ci siano alternative, diciamo, a livello della politica degli stati, quindi questo, diciamo, solo per chiarire un po' il nostro approccio. Poi ci tenevo a dire appunto che l'abbiamo un po' accennato all'inizio, Disfare non è una linea, non è un collettivo, non è neanche una rivista, ma è un, diciamo, uno strumento per cercare di mettere in collegamento e dare risalto a delle esperienze di lotta e dei ragionamenti contro il mondo guerra, per cui è un progetto che è anche aperto. Noi invitiamo chi ci ascolta a segnalarci, noi abbiamo ad esempio una rubrica che segue un po' le azioni contro il mondo guerra, noi accogliamo molto volentieri segnalazioni, grafiche, testi, insomma è appunto lo spirito, non è quello di diciamo dire la nostra necessariamente, ma anche di creare uno strumento che sia utile per mettere in collegamento varie esperienze di lotta. Abbiamo bisogno di, diciamo, noi non riusciamo ovviamente a fare tutto, ma ad esempio di traduzioni, perché ci sembra importante non solo il lavoro che fa Disfare, un po' provare a tradurre testi da altre parti del mondo per un pubblico che legge in lingua italiana, ci sembra importante anche far sapere quello che succede in Italia al di fuori, per cui anche chi avesse voglia di contribuire al progetto con traduzioni può sicuramente darci una grande mano. E, ricordo appunto la mail a cui si possono ordinare copie e scrivere a Disfare, che è disfare@autistici.org, e ricordo che è appunto in stampa il quarto numero, per cui scrivendo alla mail si possono ordinare copie di questo numero. Beh, l'unica cosa in conclusione, già che finiamo questa puntata, mandiamo come al solito anche un saluto caloroso a chi ci ascolta da condizioni di privazione della libertà, da chi è recluso anche nelle carceri, visto che sappiamo che il nostro segnale a volte raggiunge anche persone che sono dentro istituti penitenziari, e in particolare anche un saluto a chi è stato fermato, arrestato per la manifestazione del 31 gennaio a Torino, che è un altro esempio, diciamo, di come a volte l'opposizione può straripare gli argini e ricollegarsi anche a quelle giornate di settembre-ottobre che hanno aperto un varco che però appunto va tenuto aperto adesso nella costanza. E ricordiamo anche a chi vuole scrivere una mail alla radio, eustachio@posta.indivia.net. Questo era il Ponte Radio a conduzione Radio Eustachio di oggi, venerdì 13 febbraio. Un saluto agli altri segnali di Wombat, Spore, Onda Rossa, Neanderthal, Blackout, Quar, e a risentirci venerdì prossimo con la conduzione del Ponte Radio di Radio Quar.